dove vanno i marinai con la loro giubba bianca, sempre in cerca di una rissa o di un bazar. Dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare. Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle, sempre uguali, sempre quelle, all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi tra di loro e a rimanere veri uomini? Però è intorno al mondo senza amore come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va. Col cuore oppresso una donna, una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà. Ma dove vanno i marinai, mascalzoni ed imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana, nel cielo che sorride. Come fanno i marinai con questa noia che li uccide, addormentati sopra un ponte, in fondo a mare in cuore, sognano un ritorno, smaltiscono di cuore, affaticati dalla vita, piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo, più non sa di niente, su questa rotta inconcludente, da Genova a New York. Ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e a rimanere veri uomini però? E intorno al mondo senza amore come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va. Col cuore appresso a una donna, una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà. Grazie di essere.